9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, vi leggo un pezzo, scelgo tra i tanti che ci sono oggi sui quotidiani. Ci occupiamo naturalmente dello sviluppo politico. Ieri la formalizzazione della mozione di sfiducia da parte di Gianfranco Fini, di Pier Ferdinando Casini e di Francesco Rutelli e dei loro sostenitori alla Camera fa dire a tutta la stampa italiana stamattina che siamo a una svolta, perché i numeri sarebbero oramai pressoché fatti, sommati, crisi e una richiesta formale di sfiducia, di dimissione da parte di Silvio Berlusconi, quindi fine di ogni passo, trattativa, contatti, sfioramenti, chiamateli come volete, volti a comprendere se vi fosse un'ipotesi di governo Berlusconi esteso. Si era detto all'UDC, si era detto da parte di FLI nel caso in cui Casini avesse accettato una prospettiva comune e congiunta, quindi un governo discontinuo come composizione, ma comunque un governo Berlusconi. Invece la deposizione di questo strumento fa scrivere a tutti fine di questa fase, e quindi Berlusconi ha i numeri o non ha i numeri per restare? Vi leggo tra i tanti un articolo di Carlo Bertini, lo prendo dalla Stampa, pagina 8 di oggi, e il titolo è: il terzo polo firma la sfiducia, fini ora e crisi. E tutti i quotidiani oggi si esercitano su questa specie di aritmetica dei numeri della nuova maggioranza, chiamiamola così. Ecco, allora scrive Bertini: come nelle grandi occasioni tutti impugnano il pallottoliere. Conti alla mano, assicura Italo Bocchino, ci sono 317 voti su 630 per disarcionare Berlusconi. Un numero buttato lì non a caso, continua Bertini, come si scopre facendo la spunta dei nomi. Da qui emerge un doppio caso in rosa, quello di due deputate del PD e di FLI, probabili assenti ma ben giustificate. Federica Mogherini, infatti, deputato del PD, con un parto programmato proprio il 14 dicembre mattina, che si sta cercando tra l'altro di spostare al pomeriggio per farla arrivare col pancione in aula, povera Federica Mogherini. E dall'altra parte c'è Giulia Cosenza dell'FLI, costretta a letto da una gravidanza problematica. Per il resto invece i conti sarebbero così ripartiti: escludendo il voto di Fini, che come presidente della Camera ricordo a tutti non vota, e del dissidente di FLI Catone, che dice che non voterà la sfiducia, il terzo polo sulla carta somma 85 voti. A questi 85 voti si aggiungono le 224 firme in calce alla mozione del PD e dell'Italia dei Valori. Caso a parte quello dei radicali, che dopo l'apertura del dialogo di Pannella, raccolta dal PDL con la Russa, che lo ha incontrato ieri, e una richiesta di chiarimento politico al PD non ancora esaudita invece da Bersani, hanno comunque fatto sapere che voteranno la sfiducia, dunque altri 6 voti, a cui sommare quelli di Giulietti, del Valdostano Nicco, iscritto al gruppo misto. Senza le deputate incinte si arriverebbe a 315, ma altri 2 esponenti delle minoranze linguistiche, Brugger e Zeller, quindi su Tirolo e Molspartai, che la volta scorsa si astennero, stavolta vengono dati dalle opposizioni per convinti e si tornerebbe così a quota 317. Ecco, questo è un pochino il dato numerico, fattuale, non lo so, da cui partiamo in questa trasmissione, e naturalmente sentiamo qual è la valutazione di questo sviluppo e anche di questa matematica della crisi da parte dei nostri ospiti in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo con noi Maurizio Gasparri, che è presidente del gruppo PDL al Senato. Buongiorno e grazie Gasparri. Buongiorno Giannino. Abbiamo Giorgio Conte, vicepresidente del gruppo di Futura Libertà alla Camera. Buongiorno e grazie a Conte. Buongiorno dottor Giannino, a lei e ai suoi ascoltatori. E Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, vicepresidente della Camera dei Deputati. Buongiorno professor Buttiglione. Buongiorno. Allora, comincerei da Giorgio Conte, nel senso che in questa matematica ci si ritrova il vicepresidente del gruppo di Futura Libertà alla Camera, ed è considerata da voi un fatto acquisito, per così dire, oppure qualche possibile sviluppo è immaginabile ancora? Sia attuale mi sembra corretta, è altrettanto vero che i numeri sono sempre destinati nel corso delle ore e dei giorni che ci separano da qui al 14 dicembre a subire qualche fluttuazione, qualche variazione, ma quello su cui mi piace di più invece fare una valutazione rispetto alla sua giusta e corretta premessa è che la mozione di sfiducia, così come è stata presentata e prospettata, non vuole essere semplicemente ed esclusivamente la fine di una fase, così mi sembra lei Giannino abbia, sì, abbia detto. Vorrebbe addirittura costituire un qualcosa di più, anche un qualcosa di propositivo, un messaggio che mi sembra scaturisse già dall'intervento di Gianfranco Fini a Perugia, cioè l'inizio di una nuova fase. Ammesso e concesso per quanto ci riguarda che si sta esaurendo e si è esaurita una fase politica nella quale, a nostro giudizio, il governo sembra aver esaurito una fase propulsiva, proponiamo l'apertura di una nuova fase, proponiamo di non arrivare nemmeno al voto di sfiducia, ammesso e concesso che i numeri siano quelli che ha prospettato lei e che prospettano molti giornali oggi, che Berlusconi prenda atto della situazione, che si dimetta e che tutti assieme con un grande senso di responsabilità si pensi alla fase 2, e non è escluso che sia lo stesso Berlusconi il protagonista della sua fase 2 di questa legislatura. Quindi è un appello a Silvio Berlusconi a farsi i numeri prima, a capire bene che in queste settimane residue, dimettendosi però faccia capire un secondo, che cosa potrebbe avvenire in caso Berlusconi addivenisse a questa prospettiva che implicitamente le dice voi gli indicate? Potrebbe avvenire semplicemente che nel momento in cui si presenta al Colle dimissionario per aver preso atto della situazione che è stata descritta correttamente da lei e da molti quotidiani questa mattina, le trattative che lei stesso ha citato e che di fatto erano più contatti politici più o meno sotterranei possano produrre un panorama politico come quello che ha auspicato lo stesso Gianfranco Fini a Perugia. Quello che di fatto si è determinato in queste ultime ore è la conseguenza della sordità di Berlusconi da Perugia ad oggi, e anzi vorrei dire di più, quando gli abbiamo significato che la maggioranza in Parlamento, quantomeno e sicuramente alla Camera, non c'è più, le risposte non sono state risposte responsabili. Abbiamo letto in questi giorni di richiami al tradimento, chi più ne ha più ne metta, in merito anche ad espressioni sicuramente poco concilianti, quando sarebbe stato auspicabile invece che ci fossero delle risposte politiche nel merito di ciò che aveva detto Gianfranco Fini a Perugia. Professor Buttiglione, dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'UDC, di Casini, suo personale, anche questa indicazione che viene da Conte, da FLI, Berlusconi pensaci, vedi di andare al Quirinale prima perché allora possiamo subito confezionare un inizio di fase nuova senza esporre il paese a ulteriori e traumatici instabilità con l'euro sullo sfondo che balla. E voi condividete questa prospettiva? È questa la lettura da dare alla mozione di sfiducia, oppure è anche, perché non si capisce, una esplicita presa di posizione per dire mai più con Berlusconi si fa un governo? Perché questo non è molto chiaro. Guardi, sono certamente d'accordo, se Berlusconi dà le dimissioni adesso risparmia al paese 10 giorni di attesa e anche uno scontro lacerante che ci vorrà un po' di tempo per ricucire. Ne aggiungo che anch'io ho il mio pallottoliere che dà risultati non molto diversi dal suo, però è un calcolo che non mi appassiona. Immaginiamo che Berlusconi abbia lui 317 voti, allora che succede? Cambia con 317 voti? Mi pare assolutamente impossibile. Bisogna di una maggioranza che ci sia in aula, che si concreti giorno per giorno attraverso un'attività parlamentare. Nessuno ne può governare con 317 voti in Parlamento. Questa maggioranza è finita. Bisogna prendere atto di un fatto. La svolta del predellino è finita. È andata male, non è riuscita. È fallito il Popolo delle Libertà. Non c'è più. Con la svolta del Pedellino, Berlusconi ha chiesto al popolo un mandato pieno, assoluto, a fare tutto in qualche modo da solo, e ha garantito di essere capace di organizzare un partito che sarebbe stato capace, che avrebbe governato. È successo che il partito non l'ha organizzato, che non è stato capace di costruire un partito democratico e quindi non è stato capace di governare le forze che aveva riunito nel Popolo delle Libertà. Deve dare le dimissioni, assumendosi la responsabilità di questo fallimento. Dopodiché tutte le persone responsabili si trovano, si parlano e cercano il modo di tirare fuori il paese dalla difficoltà, perché il paese è in difficoltà, è un anno che il paese non è governato, e non è governato, la barca non ha nessuno al timone, proprio in una fase in cui il mare è molto tempestoso. Se lei mi chiede cosa dobbiamo fare dopo, io le dirò che oggi No, no, aspetta, professor Mutino, io prima di chiedere cosa viene dopo, io sono ancora interessato a capire se c'è il margine, perché un conto è dire Berlusconi capisci, fatti i conti, con 317 quando anche ne avessi tu, come lei ha appena detto, non governeresti, sai meglio di me che ci vuole un margine di maggioranza molto più serio, e allora pensaci, perché noi siamo qua per vedere insieme a te, in coerenza con un mandato che comunque gli elettori hanno dato 2 anni fa, molto netto, però a cambiarlo, perché la situazione è cambiata, il PDL come progetto ha perso un pezzo fondamentale, ma insieme a te e sotto la tua guida di governo, non più come un progetto politico condiviso. Se questa prospettiva c'è, bisognerebbe dirlo con chiarezza, altrimenti diverso è dire poi vediamo cosa viene dopo, ma questa prospettiva, Buttiglione, se ci fosse questa... Ho l'impressione che rincorra troppo. Ecco. In questo momento nessuno può garantire cosa... È caduta la linea. E allora a questo punto però, siccome questa parte di ragionamento, a dire la verità, secondo me l'onorevole Conte in qualche maniera ci ha dato una risposta su questo. È una risposta che è non impegnativa, perché è ovvio che come si fa a valutare un atto che non c'è ancora, perché allo Stato Berlusconi dice io ho i numeri e vado avanti. E facciamo la prova numerica in Parlamento, ciascuno si assume le sue responsabilità. Buttiglione, a dire la verità, ha detto sì, questa maggioranza non c'è più. Su questo punto, prima che cadesse la linea, ha detto ma non andiamo troppo avanti. A questo punto, sentiamo l'onorevole Gaspar, il presidente del gruppo PDL al Senato. Bisogna andare a contarsi per la responsabilità di fronte agli elettori o prima bisogna fare qualche altro ragionamento? Gaspar, che ci dice? Ma guardi, io ascolto alcune cose, come dire, anche sconcertato, meravigliato, perché sono cose che difficilmente si capiscono. Abbiamo avuto una prova elettorale, è stata espressa una maggioranza, sono nate sicuramente delle discussioni politiche, ognuno può dare la sua chiave di lettura di quello che è successo oggettivamente, però c'è stata un'opera di distinguo costante da parte di Fini rispetto all'opera del governo di Berlusconi, dello stesso PDL su molti temi, ci sono state insomma prese di distanza perfino nel piano di campagne elettorali, penso alle elezioni dell'anno scorso, quando nei partiti insomma di già regola che in campagna elettorale tutti si opera per il miglior risultato. E oggi arriviamo a questa situazione, francamente, di tatticismi parlamentari, di un Presidente della Camera che paradossalmente invece di difendere la funzione del Parlamento, lui che ne deve essere un garante, si augura nella sostanza che il Presidente del Consiglio si dimetta fuori dal Parlamento per avviare tutta una serie di riti di vecchio stile. Io credo che la cosa migliore sia affrontare questo dibattito parlamentare al Senato e alla Camera e poi vedremo, non so se sono 317 di qua, 311 di là, cosa fa Tizio, cosa fa Caio, riprende un po' un giochino antico del voto decisivo di singoli esponenti che per quanto tutti rispettabili e importanti si vedono schiacciati da una responsabilità rilevante in un momento in cui, non è vero quello che dice Buttiglione, è fallito il progetto del PDL, non è così, il PDL ha vinto tutte le elezioni che si sono svolte dopo il 2008 sul territorio, in tante regioni e comuni anche un tempo avverse, sul piano dell'economia, e io vorrei ricordare che noi nel mese di agosto abbiamo varato una manovra che ha ulteriormente, rispetto alla crisi che colpisce altri paesi europei, è tutelato la situazione italiana. C'è una crisi internazionale, mondiale, non è che l'Italia viva su un altro pianeta, sta in questo pianeta e fronteggia i problemi come gli altri paesi, li ha affrontati forse meglio di altri. Io negli anni passati ricordo gli elogi all'Irlanda, il modello fiscale irlandese, la detassazione irlandese, l'impresa si apre in un giorno, e l'altra settimana l'Europa ha dovuto mettere mano alle tasche e dare 85 miliardi di euro all'Irlanda per evitare un tracollo. E quindi voglio dire, noi abbiamo fatto provvedimenti economici nel corso di questi 2 anni, abbiamo fatto una cosa che molti hanno criticato, no? Bloccare dal 2011 per 3 anni i contratti pubblici. Ho visto che l'altro giorno Obama ha fatto la stessa cosa mesi dopo, e quindi io contesto alla radice il fatto che non c'è il pilota al governo, perché Berlusconi stesso, ma anche sul piano della politica internazionale, guardate che va ribaltata la chiave di lettura di questi giorni. Noi abbiamo proseguito una politica di ricerca di approvvigionamenti energetici dell'Italia, ho visto ieri sera in un telegiornale un'intervista di Oscar Giannino che diceva noi per l'85-90% dipendiamo da importazioni, l'Italia seguendo una politica tradizionale con più trasparenza devo dire di altre epoche, perché io ricordo il colonnello Giovannone che era un esponente degli anni 70 dei servizi di sicurezza che ai tempi di governi di centrosinistra sembrava che avesse rapporti strani con ambienti come dire dell'oltranzismo fondamentalista in Libano. Ricordo D'Alema che passeggiava da ministro degli esteri con i capi degli Hezbollah, ricordo i governi del centrosinistra che accoglievano le varie Baraldini o Shalan con un tripudio, chissà se usciranno note americane che parlano del discredito che i governi di centrosinistra hanno causato all'Italia. Gli elogi della Clinton dell'altro giorno riguardavano anche fatti specifici, la crisi della Georgia, l'impegno in Afghanistan e altrove. E quindi io credo che ci sia un bilancio positivo da un lato e un tatticismo parlamentare che francamente non capisco a cosa debba portare, se non a indebolire l'Italia, a esporla a manovre speculative. Io ritengo che si debba quindi affrontare il dibattito in Parlamento. Sono consapevole anch'io che se i 317 voti sono a favore e non contro è difficile una azione di governo quotidiana e normale, ma mi chiedo e chiedo a quelli che poi favoriscono questa situazione, a partire da chi ha votato, chi è stato eletto con il PDL, se questo è uno scenario rappresentabile agli elettori. Poi si dice una ripartenza, una nuova agenda, cioè lo sviluppo, ma qualcuno pensa che Tremonti o Berlusconi o qualcuno tenga nascosti dei miliardi di euro da qualche parte che non vuole investire per non favorire lo sviluppo? Ma di che cosa stiamo parlando? Si ha contezza di ciò che si parla, delle fatiche per governare la situazione economica che con grande capacità hanno affrontato Berlusconi, Tremonti e tutta la maggioranza, compresi quelli che adesso vanno sui tetti? E perché poi se uno un giorno va sui tetti con l'estrema sinistra, l'altro giorno fa la mozione con il polo di centro e l'altro giorno fa un'altra cosa, allora non si dica che ci siamo stufati di Berlusconi e vogliamo buttare giù tutto. Ma questa però è una cosa che devono decidere gli elettori eventualmente, se è finita un'era, se c'è una svolta, ci sia una proposta alternativa, se prende più voti, non ho capito dove, sui tetti con la sinistra, nei palazzi col centro, nel sottoscala con qualcun altro. Un po' di serietà e di chiarezza credo si debba invocare davanti al paese. Allora, ora ci aspetta la pubblicità, poi Buttiglione che oramai è occupato, abbiamo Enzo Carra che dopo la pubblicità, perché io sono comunque interessato a capire, non so, e al di là della tattica, purtroppo questo è un periodo in cui, mi scuso con i radioascoltatori, ma è inevitabile che la politica, ancora più del solito se volete, faccia molta tattica, perché è così fino a che non si capisce poi come si va avanti a contarsi o meno. E però io su questa valutazione dell'UDC, se esista ancora un margine oppure no, sbaglierò, ma mi pare di capire che è più esplicita la posizione di FLI che dice dimettiti e vediamo, mentre quella dell'UDC mi sembra ancora meno chiara, a dire la verità, e quindi ci tenevo, sentiremo se l'onorevole Carra è in grado di risponderci, come Buttiglione ci ha invece detto no, non andiamo avanti a parlare di questo, e poi è caduta la linea. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, e a questo punto io rifarei a Enzo Carra brevissimamente la domanda sul quale poi Buttiglione aveva fatto cadere la linea dicendo no, su questo è troppo chiedere, perché era una valutazione richiesta all'UDC all'indomani della formalizzazione dello strumento di sfiducia condiviso con FLI, con API, con Rutelli e con Fini, se un gesto da parte di Berlusconi di discontinuità eventuale prima di andare alla conta, che ovviamente muscolarmente peggiora ulteriormente le possibilità di immaginare futuri condivisi di governabilità in questa legislatura, se di fronte a un gesto di quel tipo sarebbe possibile a giudizio dell'UDC a quel punto valutare l'apertura di una fase nuova senza passare per crisi, per instabilità, ma tentando di evitare la conta. Carra, che dice? Questa prospettiva esiste oppure lo strumento depositato dice che quella prospettiva non c'è più? Ma guardi, oltre il documento depositato dice che si aspetta, si apre una crisi politica. Io credo che le dimissioni di Berlusconi possano esserci. Soprattutto mi pare che ci sia un atteggiamento di Berlusconi che sia imbarazzante in questo, ma non soltanto oggi, da ormai da mesi, perché tutto quello che sta capitando adesso è preparato da almeno un anno, e mi pare che in questo senso, in questa direzione, Berlusconi abbia fatto assai poco, se non scrollare le spalle e guardare con una certa arroganza i suoi amici, ex amici, guardare dentro la sua ex maggioranza. Dunque, lei dice una discontinuità, certo una discontinuità, perché non credo che nessuno, soprattutto nell'UDC, abbia interesse a una crisi di sistema. Però qui adesso si tratta di certificare una crisi. In questo senso una responsabilità di Berlusconi è evidentemente in prima linea. Lui può dimettersi, può andare dal capo dello Stato e concertare una qualche soluzione. Lui ha una grave responsabilità in queste ore, non ce l'ha soltanto l'opposizione, come mi pare si voglia dire. L'opposizione fa, come si dice in certi casi, il suo mestiere, parlo soprattutto dell'opposizione PD, Italia dei Valori. E qui c'è un fatto nuovo, che è quello di ieri degli 80 e più, le 80 più firme che hanno sottoscritto la mozione di fiducia al governo. A questo punto noi aspettiamo la certificazione della crisi. Il Presidente del Consiglio abbia molte carte davanti, però certamente ha diverse mosse che può fare che sono intorno a quella di dimettersi, ma anche quella di dare segno almeno di riflessività, di capire che cosa sta succedendo, di non scaricare su un fato avverso e su altre cose e su chissà quali situazioni difficili. Chiarisce una risposta. Questo fa la differenza. Ecco, la risposta è comunque prenda atto. Allora, siccome Gasparri adesso ci deve lasciare tra tre minuti, gli chiederei una valutazione. Si aspetta, è possibile questo? Oppure forse complicherebbe la cosa, cioè se davvero il PDL intende dire di fronte al proprio elettorato abbiamo assunto insieme un impegno e le valutazioni che sono intervenute ci hanno fatto cambiare idea, andiamo alla conta, perché così l'elettorato avrà chiaro. Io ritengo che bisogna guardare un occhio ai mercati, però io capisco anche questo punto di vista, a dire la verità, perché siccome è l'ennesima volta che questo capita nel centrodestra, è capitato nel centrosinistra, l'assunzione di responsabilità è sempre un passaggio decisivo. Gasparri, conta secondo lei oppure calcolo politico che guarda anche ai mercati, che guarda alle alleanze, che guarda insomma alla possibilità di un futuro comune? E comunque, non so se lo so che in politica è difficile quando ci si esercita, ecco, però ho l'obbligo di chiederglielo. No, intanto posso stare ancora fino alle 9.50 se lei è disponibile. Ci ho rinviato un attimo la riunione che c'era di qualche minuto, quindi se le fa piacere posso rimanere nella discussione ancora. Guardi, veda, proprio i termini che usiamo, il linguaggio, ci colloca lontani da una normalità di dibattito. Io non voglio essere monotono, perché anche ripetere le nostre posizioni può diventare motivo di noi. Ci sono state le elezioni, si è formata una maggioranza, c'è un governo, c'è stato un consenso popolare confermato, elezioni provinciali, comunali, regionali, europee, quindi c'è una maggioranza moderata che in Italia si manifesta regolarmente sempre. La sinistra è andata al governo solo quando quest'area si è divisa. L'errore che fa Futuro Libertà è un errore politico, perché dividendo un'area moderata di centrodestra rimette in gioco una sinistra che non ha progetti, non ha prospettive, alimenta proteste di piazza, non ho capito se ne cavalca o se ne viene cavalcata con un atteggiamento confuso. Bersani, che non sa imporre, proporre, far accettare la sua leadership alla sinistra, deve andare a fare le proteste di piazza, perché sennò Vendola affascina di più. Non c'è una capacità progettuale, non ci sarebbe una politica estera, perché quella di D'Alema preferiva gli Hezbollah alla comunità internazionale più affidabile. Noi abbiamo raggiunto un punto di equilibrio nei rapporti con Stati Uniti, Russia. Abbiamo bloccato flussi migratori dalla Libia, anche dialogando con fatica e con difficoltà con un interlocutore ostico come Gheddafi. Abbiamo confermato una tradizionale politica italiana che dai tempi dell'Enrico Mattei ad oggi cerca fonti energetiche ad est, nel Medio Oriente e altrove, facendolo con maniera più, io dico, contro le critiche che ci si fanno, più trasparente. E a fronte di questo, di fronte alle difficoltà economiche, si vuole allargare una maggioranza? Beh, questo può essere un fatto auspicabile. La si vuole sabotare dall'interno, è un fatto deprecabile. Si vuole fare un tatticismo, mettiamo le firme, proprio non sappiamo se sono 317 o 315 o 300.000, poi tu ti dimetti, vai al Quirinale, poi ti ridanno l'incarico, no, anzi forse ci mettiamo un amico tuo, anzi no, forse forse vattene via. Ma allora, se c'è un progetto alternativo a quello del centrodestra guidato da Berlusconi, scende in campo e allora vada di fronte agli italiani a chiedere un consenso. C'è questo progetto? Non mi pare che ci sia. Non ecco, pare io ci devo, sia. Devo ammettere. E allora, nella democrazia, questo è un fatto sostanziale, dice, ma c'è la difficoltà economica, non si voti. Allora che cosa facciamo? Devo ammettere che c'è stato. Parlerò come un cittadino qualunque. No. Ma poi se noi dovessimo perdere delle elezioni, e le perderemo, ci sarà un'altra maggioranza, se governerà, se farà bene andrà avanti, se farà male la discenderemo dopo. Ma ammetto che c'è stato un passaggio nello sviluppo, diciamo, si chiamano in latino exempla ficta, gli esempi per finti, quelli che uno fa a fine retorici, ma che a un certo punto nel passaggio del ragionamento di Gasparri dice, no, tu forse poi dimetti, poi ci rimettiamo, o forse ci mettiamo un amico tuo, che è stato una voce dal sen fuggita, perché naturalmente come esempio puramente ipotetico, ma l'onorevole Gasparri ha buttato lì una altra cosa che si legge sui giornali, non ne parlano esplicitamente i politici né i firmatari della vecchia opposizione né quelli della neo-opposizione del nuovo strumento, però insomma è un'ipotesi. Sentiamo qualche telefonata al volo a cui far rispondere poi i nostri ospiti. Cominciamo con Rocco che ci chiama dalla provincia di Como. Prego Rocco, come la pensa? Buongiorno Giannino, grazie per avermi richiamato. Si figuri. Come la penso? Eccolo qua, cittadino qualunque. Se davvero c'è democrazia, questi signori che si stanno allontanando da Berlusconi, a cominciare anche da Buttiglione, che predicano democrazia e altro. Io sono operaio, però la voce al popolo. Si va a votare senza paura. Chi vince va sul governo. Chi no, si fa da parte. E la smetta ogni volta. Si aggrappano a tutto. Pur di andare al potere, adesso fanno la conta. Loro per un punto in meno non gli va bene, perché il governo non può governare con un punto di maggioranza. Però se loro hanno un punto di vantaggio, vedrà che casino abbiamo vinto, Berlusconi se ne deve andare. Va bene, così. Tesi di Rocco, meglio elezioni. Faccio notare a Rocco che l'UDC si è presentata agli elettori separata al PDL con una scelta dal punto di vista numerico e come funziona la legge elettorale coraggiosa, quindi l'UDC non è FLI che nasce dalla rottura del PDL dopo essere andata insieme alle elezioni. Sentiamo ancora Fulvio che chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno e grazie per queste trasmissioni. Allora, molto velocemente, farò un intervento populista e demagogico, così già mi metto avanti su quello che diranno i suoi ospiti. Oh mio Dio! Allora, i suoi ospiti, come i loro colleghi, devono andare a casa, ma non perché non hanno la maggioranza, ma perché si permettono di bloccare un paese da un mese e mezzo. È da un mese e mezzo che la Camera non lavora, a meno che non ci facciano vedere quelle due riunioni settimanali che fanno per la riforma dell'università, che non hanno neanche portato a termine. Ah, lei dice quindi, siccome non sono più in condizioni, tant'è vero che bloccano il Parlamento, va a andare a casa. La responsabilità di governare un paese è prenderlo in mano in un momento difficile, così. Ma lei dice meglio andare a votare, quindi o no? Guardi, non cambierà niente. Questo è il dramma di questo paese. Ma cosa facciamo? Ma perché dobbiamo essere tutti rassegnati? E che mai è possibile che cambi qualcosa? Cioè, è questo che mi colpisce. Grazie Fulvio, però insomma un pochino più, insomma, di fronte alle crisi, alle difficoltà, ci si dà tu le maniche, si ragiona e si tenta di fare qualcosa. Perché questa rassegnazione fatalista, capisco i punti di vista diversi, io capisco e so benissimo, c'è tanta gente che dice Berlusconi ci ha rotto le scatole, basta, via, non è in grado. C'è una parte del paese che lo ha sempre pensato, una parte nuova che ci si è aggiunta. Il problema è adesso cosa fare? Meglio votare? Tentare di ragionare, visto che qua i mercati saltano e si complicheranno? Date retta al perfido Giannino, la situazione è molto complicata perché i tedeschi soffiano molto sul fuoco, perché così si deprime l'euro, allora si beccano il vantaggio. Il segnale è che entro due anni le banche tedesche disintermedieranno tutti i titoli dei paesi, diciamo, meno virtuosi, nostri compresi, i loro portafogli. In questi due anni il mercato quindi selezionerà e sancirà diversamente l'esposizione al premio di rischio del debito. Questa è la prospettiva. Ma la politica cosa deve fare quando non va più d'accordo? Giuseppe la provincia di Chieti, che ci dice Giuseppe? Lei come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, io sono molto arrabbiato con Fini, questo signore qua la deve smettere, perché già quando ci stava Follini allora si parlava di discontinuità, questo signore ha causato solo casine all'Italia, è un signore che deve andare a lavorare, io ho una piccola impresa, mi alzo tutte le mattine alle 5:30, io sto sul cantiere, mi sono stufato, che si dimettesse da presidente della Camera, basta, e si andasse al voto subito con un mese, basta. basta. Va bene Giuseppe, adesso naturalmente gli ascoltatori penseranno, Giannino, come se io non le scelgo le telefonate, io non so come dirvelo, io mando in onda quelle che mi trovo segnalate, quindi cari ascoltatori, lo dico a tutti voi che pensate che bisogna voltare pagina rispetto al problema Berlusconi e al premier Berlusconi, queste sono le telefonate che mi hanno girato dei nostri ascoltatori di oggi, quindi non c'è nessuna regia dietro questa cosa qua. Ora andiamo alle informazioni sulle strade in diretta, poi torniamo col round finale di opinioni dei nostri tre ospiti. Eccoci tornati in studio. La mia domanda secca, prima a Carra e poi a Conte e poi a Gaspar, è la stessa, la faccio uguale per tutti, dandovi più o meno 2 minuti a testa per la risposta. Carra, lei si aspetta ci fosse un ipotetico appuntamento elettorale presto dietro l'angolo, se i numeri rendono poi impossibile fare non solo al PDL attuale un tratto aggiuntivo di governo con un voto, due voti o più o in meno, ma in realtà a quel punto diventa complicato fare qualunque maggioranza di qualunque ipotesi istituzionale per cambiare la legge elettorale con un voto di maggioranza, faccio la stessa domanda, anche se non fosse più l'attuale maggioranza, quella del 2008, le elezioni, ma una nuova che si forma. In queste condizioni ipotizziamo di andare al voto. La valutazione che fa l'onorevole Carr a oggi, per come vede l'Italia, per i segnali che sente intorno a sé, per gli sviluppi che ci sono stati in questi ultimi mesi, che sono stati sviluppi di profonda autoribaltamento, per così dire, del PDL, pensa che gli italiani, di fronte a questo, abbiano una significativa rottura di continuità sul giudizio che poi in tanti anni hanno continuato a esprimere verso Berlusconi e che quindi davvero nel paese ci siano i segni di una pagina che si chiude perché gli italiani a maggioranza però comunque non ne possono più, oppure no? Qual è la sua impressione, Carlo? Io credo che siamo sull'orlo della crisi di sistema e tutti gli indicatori mi danno questa sensazione, questa idea. Naturalmente posso sbagliarmi, quasi starei, direi vorrei sbagliarmi, ma da Wikileaks alla serie enorme di indagini su corruzione varia, la crisi politica, l'impaccio del Presidente del Consiglio, l'attitudine di una maggioranza che invece di guardare dentro se stessa pensa soltanto a fare come te coppa, cioè fermare gli altri, di guardare in casa degli altri, insomma, cioè questa mancanza di riflessività che tutto sommato poi coinvolge tutti, non parlo soltanto della ex maggioranza di governo. Però ecco, questo che mi ha citato fino a questo momento riguarda appunto la politica internazionale, i media, la magistratura, la gente, secondo lei, la sensazione degli italiani? La gente, io guardi, credo che quando un bagno di come questo seguita da ormai da più di un anno, possiamo anche sperare, le sto dicendo, io spero che non sia una crisi di sistema, però una crisi di sistema anche dei nostri ascoltatori, del signore che dice andiamo subito a votare perché andiamo a casa, certo, ma quando si dice così, quando si pensa così, che cos'è se non pensare che questo sistema non va più? E andiamo a casa. È già successo altre volte, ce n'è stato nel 92, c'è stato un tutti a casa generale ed ecco qua, e quindi io credo che ci siano tutti i sintomi del tutti a casa. Quindi c'è un forte rischio di tutti a casa. Conte, si era detto molto nelle ultime settimane non si può andare tutti a casa con questa legge elettorale, però certo quando la prova muscolare diventa su un voto più un voto meno, beh, la certezza diventa molto più probabilmente elevata, perché non c'è più un margine né reciproco da una parte all'altra né di forza vera, perché chi dovrebbe uscire più dal PDL una volta che si fa la forza muscolare per dare la possibilità di farvi fare la riforma elettorale? Quindi le chiedo, davvero conta e poi a casa come rischio più elevato, oppure lei dice no, a quel punto resta ferma l'ipotesi che il capo dello Stato, noi tutti, le forze responsabili, se loro perdono si devono porre comunque il punto di cambiare quantomeno la legge elettorale, ci volessero 6 mesi o un anno, sia pure in condizioni numericamente che non so immaginare a quel punto. Lei che dice, Conte? Guardi, ho sentito anche dal dibattito e dagli interventi il continuo richiamo al senso di responsabilità. Attenzione, noi non ci sottraiamo a nessuna responsabilità, non ci siamo sottratti nemmeno quel fatidico 29 luglio quando abbiamo deciso di fondare un nuovo gruppo parlamentare alla Camera, con tutti i rischi e con tutto il gravio di responsabilità che ci sentivamo addosso. Figuriamoci se ci sentiamo in imbarazzo oggi al dover eventualmente provocare un appuntamento elettorale anticipato. Certo, non lo vorremmo. Oggi il nostro giudizio è che l'appuntamento elettorale non risolve i problemi del Paese, anzi probabilmente li aggrava, perché in un contesto economico che non merita alcun commento, perché lei è più abile di me a farlo, una campagna elettorale avvelenata come lo sarebbe assolutamente rispetto ai toni degli ultimi mesi, francamente non lo vedo come un contributo alla risoluzione dei problemi. Per cui qualcuno vuole andare all'appuntamento elettorale, bene, se Berlusconi vuole andare all'appuntamento elettorale, noi non ci sottraiamo all'appuntamento elettorale stesso e alla provocazione che Berlusconi volesse fare. Però Berlusconi, secondo me, oggi ha l'opportunità di offrire al Paese delle alternative, cioè di offrire la sua leadership, cioè il fatto di essere un grande leader politico, come ha dimostrato in questi 15 anni, e non come ha dimostrato a fine luglio scorso, quando dal Moloch delle libertà, cioè da quel partito della grande democrazia, della grande libertà che aveva cofondato e che voleva rappresentare, ha eliminato il dissenso interno, rendendo incompatibile una persona come Gianfranco Fini e i suoi seguaci, diciamo così, semplicemente perché da qualche mese esprimeva opinioni certo diverse rispetto a quella che era la maggioranza dell'opinione del Popolo delle Libertà, ma senza mai provocare alcun rocambolesco capitombolo in Parlamento. Vorrei ricordare anche il senatore Gasparri che non mi risulta ci sia mai stato un provvedimento appartenente al programma di governo approvato e votato tutti assieme nel 2008 nel quale il gruppo di Futuro e Libertà e prima dei gruppi di Futuro e Libertà i Finiani all'interno del Popolo e Libertà abbiano in qualche maniera opposto opposizione e resistenza. La coerenza in questo c'è sempre stata e abbiamo votato addirittura la riforma Gelmini e Dio solo sa quanto ci è costato votare Vabbè, adesso la interrompo, perché se le parole hanno un senso, e ce l'hanno, poi hanno, i politici le sanno ben misurare e centellinare, l'apertura che c'è in queste parole di Conte non c'era in quella di Cara, perché lui ci ha fatto un'altra scelta, l'ha detta agli elettori, e quindi io su questo sono sempre tenuto a ricordarlo ai nostri ascoltatori, ma ha fatto un'altra scelta precedente agli sviluppi di questi ultimi mesi. Nelle parole dell'onorevole Conte c'è, Gasparri, un segnale, perché dice, insomma, un grandissimo leader politico per 15 anni, poi lasciamo perdere cosa succede, non lasciamo perdere, è significativo perché ha prodotto la rottura, però insomma è una rottura prodotta nel non intendersi su cos'è il PDL, non è, se dovessimo prendere la parola di Conte, una rottura che implica il venir meno definitivo delle capacità di statista, di uomo di governo, di Berlusconi, riconosciuti da chi ha fatto la lezione insieme a lui. Si può lavorare, Gasparri, su questa segnale così, o è una cosa detta tanto per sottolineare la coerenza, secondo lei, di FLI, pur in una scelta diversa? Se si può lavorare, sì e come, o altrimenti, voto in queste condizioni? Copertina dell'Economist, l'avete vista tutti stamattina, chi almeno legge l'Economist, c'è un'Europa con la pistola puntata, un euro, don't do it, dice non sparatevi ragazzi, per quanto riguarda l'Europa la pistola è rivolta alla testa, per quanto riguarda l'Italia forse bisognerebbe rivolgerla un po' più in basso. Ma Gasparri, che ci dice? Ma guardi, più carità, io non lo so se ci sono spazi per un confronto, il confronto si farà in tanti in Parlamento, io mi auguro che il Presidente Berlusconi faccia un discorso aperto rispetto alle prospettive, agli impegni che la crisi dell'Europa, la copertina che lei citava è abbastanza esplicita, e poi vedremo se il buonsenso prevale, le parole di Conte sono sicuramente parole apprezzabili, Conte essendo subentrato nel corso della legislatura forse non ha visto che molti passaggi all'interno del gruppo del PDL talune hanno fatto fronda su alcuni temi, su alcune iniziative, hanno avanzato proposte che spesso i nostri elettori, penso in tema di immigrazione, in tema di diritti, che hanno creato delle criticità rispetto al nostro elettorato, ma lui in quella fase in Parlamento non c'era, quindi forse le sottovalutazioni valuta per questo. Però io non lo so se Berlusconi fine avranno modo di confrontarsi, di parlarsi. Di fronte a una difficoltà così grande, l'opposizione dovrebbe dare su alcuni provvedimenti il sostegno al governo. Per esempio, adesso dice a Conte, abbiamo votato addirittura la riforma al Gelmini, è un'ottima riforma che voglio ricordare a Conte. Al Senato è stata sfornata con un relatore che era del PDL all'epoca, che poi ha aderito al a Futuro e Libertà. Quindi voglio dire, se andiamo a rifare la storia dei soggetti, della situazione, dei contenuti, sono io che mi chiedo e chiedo, ma dove poi nasce questo distinguo quotidiano costante che per anni c'è stato su molte vicende? Forse, vi do una risposta, Fini ha fatto l'accordo elettorale con Berlusconi nel 2008 perché, non prevedendo il crollo immediato di Prodi alle elezioni e temendo che nella conta all'interno del centrodestra Alleanza Nazionale non ne uscisse fortissima, ha preferito un accordo senza essere convinto fino in fondo. Bisognerebbe rifare una storia di questa vicenda. Bisognerebbe fare una storia lunga dei rapporti personali e di come di volta in volta sembrava. Io sempre ho sostenuto la unità del centrodestra, il bipolarismo, la nascita di grandi partiti contenitore, ho vissuto con più, come posso dire, partecipazione convinta quella scelta. Oggi c'è in ballo il governo del paese. Il 29 e 30 settembre onorevole Conti e molti altri hanno votato la fiducia al governo Berlusconi. Dopo quel voto Berlusconi ha varato il piano sud, ha fatto, ieri l'hanno votato alla Camera. Dica a quello spettatore, ascoltatore che diceva il Parlamento è chiuso, ieri la Camera era aperta e ha votato il decreto sulla sicurezza. La settimana scorsa la Camera era aperta e ha votato la legge di stabilità. E comunque le commissioni continueranno a lavorare. Io penso che su questo, i giornali abbiano, con questa faccenda della chiusura del Parlamento, abbiano secondo me un po' contribuito a fare il polpettone della demagogia detta fuori dai denti. Comunque il tempo è scaduto, io ringrazio Maurizio Gaspari, Giorgio Conte, Enzo Carr, Rocco Buttiglione che poi è caduta la linea, ringrazio regia Fabio Cantatori, Alessandro Marco Tulli in redazione e Franco Piantanida che mi assiste pietosamente nelle mie dirette un pochino arronzate. La linea al giornale radio, appuntamento lunedì. Ragazzi, l'Italia ha bisogno di responsabilità, capisco chi vuole contarsi e picchiarsi in testa, ma se ci picchiamo i tedeschi e i mercati si fanno delle amare risate come questa. Yeah.